Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Sono anni che le corteggiamo, anni che le facciamo sentire importanti. Le ricopriamo di regalucci, le portiamo a pranzo, a cena. Anni che ci confidano i loro desideri, i loro segreti. E poi cosa succede? Scopriamo che anche con gli altri fanno così. E ci dispiace, ci sentiamo presi in giro. Facciamo fatica ad accettare che non ci sono regine fedeli. Ehi, cosa vi succede? Ci siete rimasti male? Non lo sapevate? Cos'è? Siete diventati dei sentimentali? Chi sono le regine, Giuseppe Sanson? Non sono le mogli dei re, ma sono i medici che accettano di entrare in combutta, il reato si chiama comparaggio, con gli informatori medici, prescrivono medicine che in realtà non servono, sono superflue, addirittura fanno male, in cambio beccano bei viaggetti sempre in posti scoperecci, Cuba, le Filippine, posti così, oppure regalucci che vanno dall'iPad al computer alla macchina, qualcuno anche cash. Da quant'è che in Italia non c'è un film d'inchiesta? I film d'inchiesta si sono persi un po' con gli anni 70 e in misura con i vari Petri, Elio Petri, Rosi. Petri è omaggiato da questo film perché la ditta farmaceutica in cui Isabella Ferrari abbiamo sentito tenere questo monologo ai suoi venditori si chiama Zafer, come l'albergo di Todomodo, film di Petri, riferito a Sciascia, al romanzo di Sciascia. Abbiamo lasciato un po' di suspense, il film è Il venditore di medicine nelle sale cinematografiche da martedì, film di Antonio Morabito con Claudio Santamaria, Isabella Ferrari e altri attori. Un film che c'è anche Marco Travaglio, che fa una parte antipaticissima, del più schifoso dei medici. Sì, è molto preciso lui nel Travaglio, nel ruolo, è perfetto per lui perché quella sua aria asettica, un po' da primo della classe, tagliente e quindi molto precisa. Non fare lo spoiler però, perché sennò chi lo deve vedere? Tu hai detto che è terribile. Beh, non so, può essere terribile a priori Marco Travaglio. Io è il professor Malinverni, è l'incorruttibile, quello sembra che a lui nessuno può offrire nulla. Col suo cipiglio alzato, con la sua fronte da illuminista che insomma guarda appunto dall'alto in basso lo squallido venditore di farmaci, che invece Claudio Santamaria, che ha quell'aria un po' da tecnocasa, col capello tagliato corto, la cravattina, e va in giro con la valigetta. Travaglio è uno squalo, che la categorizzazione dal punto di vista di chi deve costringerli a questo orribile baratto, la loro dignità e il loro giuramento di Ippocrate verso un po' di soldi, sono le regine, che sono i dottori, vanno lì dal dottore, dice: "Senti, ho prescritto tanti di questi antibiotici", e guadagnano il viaggetto, guadagnano il computer, poi in escalation. Poi sono gli squali, che sono i primari, quelli che fanno fare affari grossi. Poi ci sono gli intermedi, sono le sentinelle, sono i farmacisti, ti danno l'elenco dei medici che tu possa andare a toccare. Ci sono i topolini, che sono le cavi umane. Insomma, è un film che tocca un mondo che pareva intoccabile, o che pare intoccabile, o perlomeno sono tanti anni che non si parla, diciamo, della corruzione e del piccolo profitto indebito nel campo della sanità, è vero? È vero, è un film secco, appunto, che rispetta l'antica struttura della denuncia, ambientato in una Bari che si riconosce poco, se non per l'atterraggio. Che tu ben conosci. Che io ben conosco perché è la mia città, e quindi nello scambio, avviene solo uno scambio davanti all'astronave costruita da Renzo Piano, che è il grande stadio a Petali, e lì si capisce che sia Bari. Quindi una Bari non connotata come non luogo in cui ci si può riconoscere e poi riconoscersi larga parte delle città italiane. Sì, è uno scambio in una delle parti più drammatiche del film, in cui, diciamo, l'amico del protagonista, l'unico sussulto di umanità che ha avuto, che sì, Santa Maria, per una cavia che sta morendo. Sì, una cavia morendo. Che il suo amico sta morendo per aver fatto la cavia per farmaci che lo stanno distruggendo, gli serve un farmaco molto particolare e lui se lo fa dare da un suo concorrente e in cambio gli dice le debolezze dei medici. Legge la lista: questo vuole i soldi cash, questo vuole i viaggi, questo vuole dei DVD porno. Cioè, ci sono delle persone che si vendono per dei DVD porno, c'è YouPorn che è gratis. Un po' surreale questo da livello di sceneggiatura. Poi chiederemo a chi ha scritto la sceneggiatura il perché di questa uscita fantasiosa. I regali vanno fatti con criterio, sai a cosa mi riferisco? La regola dell'11, Giorgio. Un regalo deve fruttare l'azienda 11 volte quello che è costato. Quindi se sganci un computer portatile da 2.000 euro, deve fruttarne almeno 22.000. E tu faresti un regalo del genere ad uno di primo pelo con un giro piccolo a cui stai consigliando, che so, Un prodotto che costa 5 euro? No. Probabilmente no. Cosa gli regaleresti? Un telefonino. Lo inviterei a pranzo fuori. E allora cosa ti sta succedendo, Fabio? Ti sei affezionato troppo a qualche regina? Amedeo Pagani, buongiorno. Buongiorno. Allora, Amedeo Pagani è il produttore del Venditore di medicine, ma anche collaborato alla sceneggiatura e anche, diciamo, a un certo punto c'è un cameo in cui appare. Sei il cattivo dei cattivi in quel film. Sono il capo dei capi, sì. E mi preoccupo che la iena Isabella Ferrari sia debilitata nel suo compito di tagliare le teste, quindi insomma sono un po' preoccupato per la sorte dell'azienda. La citazione di Sansone è corretta? Vi siete ispirati nel nome di questa casa farmaceutica nell'Accademia della Redenzione dei Politici del film che ha citato Sansone? È correttissimo, siamo ispirati alla Zaffe perché questo mondo sotterraneo raccontato mirabilmente da Elio Petri in todo modo esattamente corrispondeva a quella che è l'idea che noi abbiamo di questo mondo sotterraneo della corruzione e del comparaggio. Tra l'altro il politico si chiama, quindi è una doppia citazione del grande Elio, insomma. Quindi in todo modo, diciamo, è stato il vostro modello di ispirazione. Sansone, vuoi dire qualcosa? Una cosa che volevo chiedere a Amedeo è: ma questo senso di stanchezza che ricorre nel film è come se tutti i personaggi, appunto, la minaccia fosse essere stanchi. In una società medicalizzata, tutti poi tendono a prendere pasticche per sostenere la catena alimentare che ha dei vertici, quelli esopici che enumerava Gianluca prima, no? Con i vari animali. Sei d'accordo su questo, Amedeo? Sono d'accordo, ma non essere illuso. È chiaro che il suo protagonista è complice assassino, ma è anche vittima di tutto questo. Si nutre di farmaci, come vedi nel film, dalla mattina alla sera, e poi compie delle azioni che la portano alla sua dannazione. Cioè, in realtà lui è una vittima e una cucina nello stesso tempo. Diciamo che risolve tutte le sue questioni con la farmacopea, anche una sua questione. Adesso non entriamo nei particolari, non vogliamo fare spoiler, ma diciamo una sua situazione familiare la risolve a modo suo, come meglio crede, con le pasticche. Nel peggiore di modi, come puoi vedere, perché poi in realtà provoca dei danni irreparabili, insomma, sia a livello sentimentale umano, sia a livello fisico. No, mi interessa sapere però, Amedeo Pagani, come vi siete documentati? Diciamo, le diciture che ho detto io, squalo, regina, topolino, corrispondono realmente a degli atti di processi giudiziari o vi siete inventati? No, non siamo inventati proprio nulla. Questa è la terminologia che esiste fra gli informatori medici, i medici stessi sono scrittori, quelli che fanno appunto prescrivono secondo un certo numero di prescrizioni, ci sono i dottorini, ci sono il primo pelo, c'è l'etico, c'è il massimalista, c'è lo squalo, c'è ganasce d'oro, che è praticamente il caso di Travaglio, cioè il primario di una clinica oncologica, che è il top. Sì, perché qui la prescrizione va a 3.000 euro a boccetta, quindi tu capisci bene che per, insomma, è un affare grosso. E soprattutto a me, giocando sulla pelle di pazienti che in gran parte sono malati terminali o con per poche speranze, c'è minor margine, diciamo, di scoprire l'inutilità del trattamento. Non ce n'è per niente. No, non ce n'è per niente. Guarda, è un sistema perverso, drammatico, perché in realtà conduce nei casi estremi anche alla morte. Nel prologo del film c'è un piccolo estratto di quelle che sono le malefatte generali. Dei telegiornali ci sono all'inizio. Esattamente, cioè proprio noi abbiamo voluto portare qualcosa di molto chiaro, asettico e indiscutibile. 167 medici indagati, 27 informatori medici. Cioè, qui c'è una corruzione dilagante che noi facciamo finta di non vedere, assopiti in un tranquillo tran-tran tra prescrizione medica, farmacista, e siamo convinti di prendere il medicinale giusto, ma in realtà non è così. Ecco, questo, diciamo, conferma quello che abbiamo detto all'inizio: avete ripreso in mano un filone molto fortunato del cinema italiano che sembrava ormai sopito. Sembra che il cinema italiano oggi è un grande cinema ispirato d'autore o parla soltanto di piccole sconcezze quotidiane, corda, amici, compagni di scuola, oppure il moccio amoroso dell'amore moccioso dai tempi di Moccia e Muccino. Allora, abbiamo Pravamina, è una statina per il colesterolo, e poi abbiamo il Pizostan, che è il nostro antiemicranico. E poi un piccolo omaggio di benvenuto che facciamo a tutti i nuovi medici. Che cos'è, mi scusi? Un un'attrezzatura utile alla professione. Pensi che ha già fornito delle applicazioni che attrezzatura servono. Attrezzatura utile alla professione? Guardi, pensi che molti medici ormai lo usano per consultare in maniera più Senta, veloce? Io ho già tutte le attrezzature di cui ho bisogno. Forse mi sono spiegato male, dottore. No, guarda, si è spiegato benissimo. Questo è il dottorino che non ci sta quando l'informatore gli mette sul tavolo, tirando fuori la borsetta, l'iPad nuovo di Zecca. Non ci sta, lui è uno che non si fa corrompere, però alla fine il film in qualche maniera darà un segnale anche su questo pessimistico, perché l'unica persona un po' pulita alla fine capisce che il sistema è troppo forte. Ecco, torniamo con Giuseppe Sanzon. Mi dai qualche accenno a quali sono i filoni di cui spesso abbiamo parlato, in cui in Italia il cinema andava oltre quella che era l'inchiesta giornalistica, dove non arrivavano i giornali però arrivava il cinema? Il cinema, oltre che con il genere di impegno che ha visto come protagonisti Rosi e Petri, aveva anche la commedia e il cinema di genere poliziottesco, che si occupavano dell'inchiesta, del raccontare i lati oscuri, da Gladio, fatto da molti film poliziotteschi, al Medico della Mutua, che invece film di Zampa con un grandissimo Sordi, che raccontava appunto tutti i lati oscuri della sanità, ma nel grottesco della commedia, nel ghigno di Sordi dell'italiano medio. Adesso ne ascolteremo un pezzo e torneremo. No, lo ascoltiamo tra un istante dopo l'informazione che diamo per il traffico. Melog, cronache meridiane. Caro Tersilli, sarò franco. Ho qui una relazione sulle notule mensili presentate dall'amministrazione della tua clinica. Per esempio, a Villa Celeste il 72% dei bambini nascono con parto cesareo. Non c'è appendicite che non sia complicata da peritonite. Tutte le ernie sono strozzate, perfino le riniti sono curate chirurgicamente, per non parlare poi delle radiografie, stratigrafie e trasfusioni e applicazioni di rene artificiale. Tersilli, io ti sto parlando da amico. Neanche io ti parlo da amico. Mi arrangio. Come? Prima di tutto cercando di convincere il mutuato a prendere una camera singola, facendogli pagare intanto la differenza fra quello che passa la mutua e la retta. Non lo capisci che siete voi mutue che ci obbligate a fregarvi? Tersilli, non dipende da me. Io sono un semplice funzionario con mansioni di controllo. Ma che cosa credi, che sia divertente per me dover fare i conti in tasca ad un amico come sei tu, ad un collega, per quello che mi pagano poi? E ho famiglia, Tersilli. Questo è il medico della mutua, il dottor Tersilli, che ricordiamo con ilare slancio di memoria, che però, come vedi, caro Sanzonna, toccava dei temi molto tosti, però diciamo ammantati con la cosmesi dell'ironia che permettevano il beneficio del dubbio, perché si trattava proprio di un film comico. Nel film Il venditore di medicine, di cui stiamo parlando, di Antonio Morabito, in realtà non c'è ombra di dubbio, è un film inchiesta a tutti gli effetti. È un film duro e aspro, che non indulge appunto alle consolazioni pur grottesche della commedia, però in Tersilli erano già chiare tutte le dinamiche di un mondo in cui i medici sono visti come santoni, quindi hanno in mano qualcosa in cui tutto può essere corruttibile, perché tutti hanno paura di morire, di ammalarsi, e quindi tutto ciò che è oscuro accade dietro le loro manovre non è controllabile, e quindi ci si affida. È lì che nasce il superpotere medico e quindi la possibilità di compiere anche malefatte. Amedeo Pagani, è un film che è produttore, ricordo, e sceneggiatore di questo film, è anche in parte coprotagonista, perché c'è una parte in cui c'è Amedeo Pagani stravaccato su un divano che fa il cattivo dei cattivi, il capo dei capi, il responsabile della grande azienda farmaceutica plenipotenziaria che tutto può sulle coscienze, sulle vite degli uomini. Diciamo, si innesta anche in un filone di totale attualità, si intravede sottotraccia la crisi, si intravede il terrore di uscire fuori dalla catena del lavoro, si intravedono i problemi familiari, i problemi sociali, e allo stesso tempo, mentre voi giravate, montavate, montava, nasceva e esplodeva il caso Stamina, quindi c'è un'attualità molto coerente. Sì, c'è un'attualità non solo Stamina, ma anche Novartis e Novartis, Roche. Certo. Cioè, è venuto fuori piano piano, attraverso le indagini dei magistrati, un sottobosco allucinante. Io credo che sarebbe bene che queste cose venissero alla luce con grande chiarezza, in modo che insomma il paziente, che siamo un po' noi, il paziente l'usufruttuario terminale, come diceva quell'avvocato, sia cosciente che questo è il meccanismo. Allora, a questo punto bisogna capire di chi sono le responsabilità. Senti, mi dici qualche descrizione sull'entrata di Travaglio, perché già è stato attaccato, Travaglio è talmente narciso e egocentrico, ha dovuto fare anche l'attore, lo fa anche bene, devo dire, sono rimasto sorpreso, recita benissimo, puntuale, la sua parte. Puntuale. Cioè, è un Travaglio perfetto, ma come ce l'hai infilato dentro Travaglio? Ah, ma guarda, eravamo in treno con il regista, con Antonio Morabito, ci siamo messi in mente quale potesse essere il risvolto, diciamo, inusuale per il personaggio. Allora, siccome Travaglio per me rappresenta il moralista puro, cioè l'erimo uomo, il Robespierre delle anime italiane del momento, ho pensato che potesse essere il massimo degli schifosi. Gliel'abbiamo proposto, c'è stato, gli andava bene, sì. Ma si è divertito tantissimo, devo dire che è molto bravo, veramente molto bravo. È molto bravo perché ha una sua naturalezza di espressione, non è, in fondo stava punendo ancora una volta, no? Attraverso questa interpretazione, questa chicca di male, insomma, questo nodo di malvagio. Quindi... Ecco, sentiamo Travaglio allora nella sua interpretazione, sì. Visto che ce l'abbiamo. Vede, professore, lei ha ragione. Lo so anch'io che ci sono alcuni informatori che sono un po' insistenti, ma le assicuro che la Zafa... E adesso, per favore, mi faccia vedere questo farmaco. Certo. Abbiamo condotto uno studio approfondito, confrontandolo sia con il placebo e sì. Resti cene. Lo stesso farmaco che mi hanno portato i suoi colleghi 8 mesi fa. Professore, mi permetto di contraddirla, ma non è assolutamente lo stesso farmaco, perché come le stavo dicendo... È o non è la stessa molecola? Professore, come le stavo cercando di spiegare, abbiamo portato avanti uno studio di confronto a doppio cerchio. E può infilarci tutti gli eccipienti che vuole. A me interessa la molecola. È o non è la stessa che ho esaminato 8 mesi fa? Io ho già scritto alla sua azienda che questo è un farmaco obsoleto, dà effetti ingestibili. Io capisco che voi avete investito un sacco di soldi e adesso lo dovete piazzare dappertutto. Queste non sono fiale di... Giuseppe Sansone, lo stesso Travaglio seduto nel salottino di Santoro che elenca le malefatte giudiziarie di un politico spiegando la sentenza nei minimi particolari. Lui ha la sua aria gelida, chirurgica, inappuntabile, asettica appunto, che è perfetta per il ruolo, in effetti non fa una grinza. E dimmi chi c'ha l'anima in questo film. No, e questo è appunto uno dei... questo è un film... teorematico, che secondo me funziona, è anche giusto, è giusto che sia così, però è molto secco nel non dare troppe sfumature a questi personaggi, è proprio un robusto film d'impegno, di denuncia, che mira dritto all'obiettivo, cioè richiama veramente al genere della denuncia secca, senza troppi fronzoli, senza perdersi nella descrizione troppo complessa dei personaggi. Questa è la mia impressione. Amedeo, è un film senza redenzione, chiaro? Certo che è senza redenzione, perché nessuno di questi personaggi ce l'ha. E il protagonista in qualche modo ce l'ha attraverso l'episodio della cavia, tenta, diciamo, disperatamente di salvare il suo amico, però naturalmente tutto questo è vano. Però attenzione, questo tipo di film sono necessari, secondo me, sono quei pochi film necessitati per cui si fa questo lavoro, perché tacere su queste cose non ci fa bene la salute. Quindi tu credi nel film d'impegno? Perché noi parlavamo, diciamo, di una certa commedia italiana, di un certo film impegnato, poi alla storia passerà come cinema di genere, perché i poliziotteschi, figuriamoci, solo Tarantino ci ritrova dei valori estetici, vengono considerati un sottoprodotto cinematografico, ma erano i film che raccontavano realmente le contraddizioni e le sporcizie in Italia, un momento in cui i problemi sembravano da tutt'altra parte. Oggi che c'è la rete, ci sono i blog, ci sono i social network, ci sono i partiti politici che di questi strumenti fanno la loro bandiera, ci sono un'infinità di giornali, di strumenti di comunicazione, un'infinità di reti televisive, ancora il cinema può riappropriarsi questo suo ruolo di un cinema di inchiesta e di denuncia? Sì, se tutto il resto non ne parla. C'è una frase spagnola che dice: de eso non se habla, di questo non si parla. Se nessun altro di questi mezzi che tu hai citato ne ha parlato o ne parla, significa che c'è un'overtà vissuta collegialmente che fa sì che invece qualcuno debba parlare, e in questo caso è il cinema. Devo dire che filmicamente il film regge molto bene, è una specie di thriller con un ritmo molto sostenuto. Non è che andiamo a fare un'inchiesta alla Gabanelli, è un film vero e proprio. Con, anche con un possibile finale diverso, in realtà... Io pensavo una specie di documentario, un docufilm, invece in realtà no, una storia, un film a tutti gli effetti. No, certo. Ero partito prevenuto, diciamo. La moglie si alza e comincia a urlare. Aiuto, aiuto, un dottore. Bene, si alzano in piedi una cinquantina di persone. Tutti medici. La spiaggia dei dottori. Ma spero di non aver annoiato il nostro amico Bruno, che la conosce già questa storia. Scusatemi. Questa è una barzelletta ricorrente, si raccontano i medici quando vanno al pranzetto con l'informatore scientifico con cui devono fare gli affarucci. Il grande convegno medico che viene organizzato dalle case farmaceutiche, fatto sempre in paradisi del sesso, la mattina vanno al convegno e non c'è nessuno. Ma in spiaggia si sente male un signore, la moglie aiuta un si alzano tutti i 50 medici a non stare al convegno, quelli che non stavano in camera a trombarsi le ragazzine, si capisce, io stavo in camera, c'è con una, c'è una pelle di velluto, si capisce. È un po' dura questa cosa, Amedeo, eh? Sarà anche dura, però per esempio io sulla mia pelle, io ho una malattia che si chiama maculopatia e ho dovuto fare l'iniezione nell'occhio e le facevo con la Vastin, che non costa nulla. Poi in realtà mi hanno prescritto il Lucentis, che costa 3.000 euro a fiala, e è venuto fuori lo scandalo Roche Novartis. Noi viviamo inconsciamente dei drammi drammatici. Quindi nasce il film da un tuo episodio personale, individuale? No, beh, però è accaduto contemporaneamente, a dimostrazione che non stavamo raccontando nulla che non fosse vero. Senti, l'ultima cosa, è vero che hai avuto qualche difficoltà per trovare i set? Beh sì, abbiamo avuto delle noie drammatiche a livello, diciamo, di organizzazione, perché abbiamo fissato un ospedale a Bari e qualche ora prima di poter girare ci hanno detto: ah no, ma scusate, sono nel caso, e così con delle farmacie. In realtà c'è tutta un'omertà abbastanza diffusa. Beh, non volevano associare l'immagine dell'ospedale della farmacia, soprattutto dopo l'inchiesta delle Iene di un anno fa circa, a un film che metteva a nudo alcuni aspetti molto imbarazzanti in generale della categoria. No, noi siamo andati a girare a Bari, non abbiamo approfittato minimamente della situazione barese, no, perché sai che scandali sono stati a Bari? Sì. Zero. Non abbiamo voluto minimamente giocare su quello, abbiamo voluto raccontare un fatto che è vero in tutta Italia, anzi in tutta Europa. Giuseppe Sansonna, secondo te, rispetto a quello che abbiamo detto, chiudiamo con la domanda iniziale, al panorama generale del cinema italiano, questo film crea qualcosa di diverso, di nuovo o di interessante? Sì, perché non è solo un problema di trasmissione dei contenuti, per quelli abbiamo già delle trasmissioni televisive, il cinema di denuncia come questo... E qual è la differenza rispetto all'inchiesta della Gabanelli? È film? Come quella conseguenza che abbiamo ascoltato prima, il racconto di un convegno in cui tutti i medici sono in spiaggia, quella, la risata grassa, queste sono pennellate emotive che rendono in profondità qual è un contesto, ce lo designano e ce lo inquadrano in maniera perfetta e profonda e colpisce lo spettatore. Nel sonitore, l'inchiesta giornalistica, questo non arriverà mai. Grazie Amedeo Pagani, grazie Giuseppe Sansonna. A lunedì.